non lavoravo, non avevo bisogno di queste cose, no. C'è la macchina grande, mettevo la macchina grande alla squadratrice, e qua eravamo lì, che era la macchina professionale, che è ancora oggi, tra l'altro ce l'ho. Ah, ce l'hai ancora quella? Sono lì, c'era manna, è lasciata in lavorazione. Allora, tutte ce le ho, sia da quattro lavorazioni che da tre o quattro lavorazioni. Insomma, in poche parole, per poter lavorare, con tutto come la macchina io ce ne vogliono 8 singole, 7-8 macchine singole, perché sono, allora c'è la pialla a spessore, la pialla a filo, la bucatrice e la cavettatrice, sono lì, ci sono 4 lavorativi. Poi nella macchina bancosega c'è la sega circolare, la truppi, la squadratrice, la tenonatrice. Sì, che fatelo conto, grandi macchine di ogni singole per poter fare tutti i lavori che posso fare io con quelle macchine. Beh, allora in quel caso lì ci vorrebbe tanto posto, no? Perché sono macchine voluminose, mentre invece ce l'hai combinate, ce l'hai e hai bisogno di meno spazio, no? Certo, e cambi solo l'inserto, allora. E infatti, cambi solamente le varie prese, i vari dischi, quelli che vuoi, che devi utilizzare, e tranquilli ci sono. Poi sono macchine indistruttibili, quelle sono macchine, tu pensi a vedere 45 anni io, quelle macchine, funzionano perfettamente come il giorno che le ho comprate, per dire, no? Sono macchine indistruttibili, sono macchine che pesano i quintali, sono tutte in ghisa, per cui non è che ci consumano, no? A parte le macchine di oggi sono macchine leggere, sono se non stai attento quando attacchi il motore prendono il volo, perché sono leggere. E saranno in alluminio, perché oggigiorno comunque l'alluminio, guarda che ha fatto passi da gigante anche su queste cose. Cioè, non che non serva la macchina perché è fatta in alluminio, ma è solo che è più leggera, giustamente. Non proprio in alluminio, può essere il piano di lavoro può essere alluminio, ma tutto il resto, il basamento, sono sempre macchine pesantissime, in ghisa, eccetera, no? E guai, se fossero l'alluminio, intanto costerebbero anche molto di più, perché l'alluminio è un materiale molto, ma molto, molto costoso. E il piano di lavoro può essere l'alluminio, ma il mio, che poi tra l'altro un domani si consumerebbe mio anche, non ti credere, quando è l'alluminio si graffia, eccetera, perché passi tu una tavola, che so io, sporca, o qualche cosa, a posto di strisciare sopra, si graffierebbe anche l'alluminio. Mentre invece la mia è tutta in ghisa, piano di lavoro, e quando è che si consuma? Mai! Già me la ricordo, sì. Infatti per spostarla ci vogliono persone, non è che la sposti così, no? Vabbè, io la spostavo perché quando avevo io il pavimento, era un pavimento scivoloso, diciamo, no? Nel senso che la giravo come volevo io, anche a una mano, la prendevo da una parte e la facevo anche roteare, per dire, a secondo di quello che dovevo fare, perché se c'era una cosa lunga magari mi toccava un muro, allora prendevo, davo una girata e utilizzavo la parte più lunga del locale, no? Per dire, funzionava. Nonostante tutto, te lo sto dicendo, sono macchine indistruttibili, non la puoi consumare, non è possibile che non una vita, ma 10 vite di persone non riuscirebbero a consumare una macchina del genere. L'unico guaio che può essere, e infatti io in tanti anni, in 50 anni di attività, sai cosa gli ho fatto con la macchina? La cinghia gli ho cambiato e basta. Perché? Perché dopo tantissimi anni la cinghia si era consumata, la cinghia che trae fino al motore, no? Eccetera. Allora l'ho comprata e l'ho cambiata, l'ho sostituita io stesso, però per il resto infatti adesso è nuova anche con la cinghia, perché non è che molti anni fa che l'ho messa, no? Non credere che l'ho messa e l'ho usata molto, assolutamente. Ma anche i motori erano costruiti diversamente per durare, come una cazzata, le lavatrici di una volta. Esatto, proprio così, sono motori quelli, intanto sono a posta motrice, no? Sono tre fasi, per cui poi hanno un bel numero di cavalli, sono potenti, no? Non è così, no? Capita, sono motori che trascinano il legno, tavoloni interi, tu li infornavi dentro la pialla spessore. persone, anche un tavolone lungo, anche 4 metri, 5 metri, ce lo trascinava tranquillamente da sola, non è che lo dovevi spingere, no. Ce lo trascinava da sola. Oggi anche le finestre, le porte, vado di tutto automatizzato, in fissi. C'è una pubblicità, fanno vedere, non so se a Vidolina e Bari, l'unica azienda, non so, adesso mi ricordo il nome, che ti fa la porta all'infisso proprio dove l'uomo deve solo impostare le misure, di base, tutta la giura che macchina. Sì, beh certo, ma oggi sono macchine più industrializzate, no? Tutta forza di computer, tu li programmi le macchine, poi schiacci pulsanti e la macchina parte e funziona da sola, quello sì, ma quello anche quando lavoravo sotto principale, che io ero giovane, allora c'era già la macchina abbastanza meccanizzata, così, automatica, però oggi è ancora meglio, oggi è ancora più sofisticata, oggi non fai altro che schiacciare un pulsante e la macchina che è già programmata e preparata per varie lavorazioni, e dice cosa vuoi fare, per dire, la lavorazione della topi, schiacci il pulsante topi e parte le frese, quelle che ci vogliono per fare magari tutti in una passata, perché ci hai messo la tavola grezza e ti è uscito più al lato, ti è uscito spesso lato e allo stesso tempo con le battute e tutto quanto, capito? E così è. Prima invece dovevi prendere la tavola, affettavi, o nella sega nastro oppure nel banco sega, affettavi, poi piallavi, poi spessolavi, e poi facevi il taglio a misura, la misura dei montanti, e poi facevi tutti gli incassi, le mortaise, i tenoni, incollavi e mettevi da parte, mettevi in squadra e mettevi da parte. Una volta che avevi incollato, poi riguardavi i vari punti dove è incollato, pulire dalla colla, eccetera, no? E poi dovevi incominciare a fare le battute, le gole, tutte queste cose qua, per poter appunto assemblare sul telaio, eccetera, eccetera. Poi mano alle cerniere, alle apparecchiature per attaccare le cerniere, la nuba, e tu facevi funzionare, aprire e chiudere la finestra, così. E anche cosa, Boe, era bravo, Sì, Boe, chi è questo? Boe, quello che c'aveva falegnameria dove c'è Campo e Ferrari, su lì, il palazzo di fronte a via Bugia. Ah, sotto il terrapieno? Già l'ho conosciuto, c'era Ignazio, Ignazio c'era anche lavorando, intanto già lo vedo Ignazio, che lavoravano lì insieme. Io lo chiamo, voglio essere separato con il tempo. Anche la voce è giunta a piazza un portoncino e toccava il sopra e mi ha detto un bizzino che era con lui, mica tocca di sopra e gli ha sottoparato con un tempo. Ma era gioco che era un ciappino di prima categoria, quello lì era un ciappino di prima categoria, per carità. Oh, qua comunque ognuno lavorava per quello che sapeva fare, se non sai fare tutto e tranquilli. In effetti a Sassari prima c'erano tantissimi falegnami, però falegnami con la F maiuscola è stato tranquillo, venire dalle bombe, tutta gente che è uscita magari dalla vita per qualche caso, potevano essere anche buonissimi operai, ma da altri posti, la rapidì, tutti i randaggi di troncadauri e basta. Troncadauri. E allora, dici l'operaio, troncadauri, chiamavo io, qui si dice troncadauri e basta, poi, a parte il fatto che uno quando deve falegname deve saper lavorare sia al banco che alle macchine, no, non come certi che sono magari lavorano solo al banco e alle macchine lo hanno uso, non sanno nemmeno dove l'interruttore, o viceversa, ci sono quelli che lavorano alle macchine e al banco loro non sono capaci. Però la differenza in che cosa sta? Quello che lavora alle macchine è capace di diciamo soddisfare l'esigenza di un'industria anche di 50 operai, lavori e tu puoi soddisfare dunque macchinisti ce n'erano successori stati sempre pochi, mentre invece banchisti sono stati sempre un numero sempre molto ma molto superiore. E comunque l'artigiano sta morendo questo cavolo di fabbriche che oggigiorno sfornano centinaia di pezzi. L'artigiano in molti settori è morto. Beh, l'artigiano a Sassari è molto ridotto, non c'è più nessuno, guarda. Io scommetto che in tutto Sassari, se ci sono due falegnari, troppo, guarda. Io non ricordo di sapere che a Sassari ci sia ancora qualche falegname. Quindi oggi sarebbe il momento buono di piazzare una falegnameria, perché non essendoci artigiani sicuramente uno avrà sempre il lavoro, ne sono più convinto, anche se oggi lavorare proprio da artigiano artigiano non è che sia molto conveniente con tutta la concorrenza che c'è dei vari grandi supermercati eccetera, tipo Bricom eccetera. E quando tu andi ad Bricom e compri una porta per 100 euro, tu con 100 euro non compri nemmeno la serramenta, compri per fare la porta. Tu mi dirai, ma non è la stessa porta? Certo che non è la stessa porta, ma la gente sa cosa interessa. Interessa che quando la porta è piazzata apre e chiuda, da voi dura due mesi, non gliela frega niente, poi se ne compra un'altra, ma che costa 200 euro, capito qual è il discorso, Luca? Beh certo, con quello che li prendono falegname per costruirne una, dentro mi posso tutta la casa. Che poi, guarda che comunque sia, non parlo di tanti anni fa, ma oggi come oggi sono belle le porte, cioè anche se è roba fatta in serie, anche gli infissi, vedi gli infissi oggi in PVC, tutte queste cose, cioè non è perché quella fabbrica ne fa tanti ogni giorno, ti dura, è un prodotto, è un materiale eterno, diciamo così, che non puoi dire ma se te l'aveva fatto Guido a vedendolo a mano da via, ma cosa siamo dicendo, che ormai la tecnologia, ma queste cose è buone a costruire un cellulare a mano, cosa pensi che i componenti quelli sono, li ha saldati lui o li ha saldati il robot, se amate si maniera di durare. Questo tutti i giorni di propagazione non fa altro che lamentarsi. Sì, ma il discorso è questo, che le porte sono leggerissime, questo sì, chiudono, aprono tutto quello che vuoi, esteticamente possono anche essere belle, non ci sono dubbi, però la qualità, sta tranquillo che no, è una volta che magari te ne scende una cerniera, come ti vai, racconti, no, ti devi rompere la canna perché intanto non regge più, il discorso è questo, e così vale anche per i mobili la stessa cosa. Poi con 700 euro, 600-700 euro, 300 euro, va, uno si compra una camera da letto completa, armadio, comodo, letto, tutto quanto. Però da voi gli dura 2 anni, tu non hai idea di quanta gente che mi portava a riparare cose comprate, e mi l'ho comprato 15 anni fa, il bambino si è messo a saltare e mi ha rotto questo. Se poi va a comprare una cosa con te di docca, vale a dire che il bambino può saltare tutta la vita che non succede niente. Ma sai cos'è? Io ho visto la giubbagata un po', con la buona, la giubbagata a 20 euro al mese, la giubbagata, e la giubbagata, pazienza, non me ne compare più un'altra, tanto è a 20 euro al mese, me la posso fare. Ma a fare la padina, non so, perché una cameretta come serve per fare falegname? Allora, io parlo negli anni 70-80, ci volevano 15.000 euro, ci volevano 15.000 lire, 15 milioni ci volevano per fare un intero mobilio per una casa. Figurati, ha fatto fare a gaso. Però erano i mobili che ti duravano tutta la vita, oh Luca, il discorso è questo, mobili che ti duravano tutta la vita. Invece oggi ragazzi, se compri l'armadio, se vuoi 15 litri ne vanno allo sportello in alto. Ma sai cosa è successo una volta a mia nipote? Ci avevano comprato una camera stile veneziano, sai, bellissima, esteticamente bellissima, perché in effetti bisogna riconoscerlo, fanno dei bei lavori, sono dei lavori ben fatti, anche ben finiti. Capita, all'acciaio si stava sistemando l'armadio, si stava sistemando, un giorno c'era la bambina piccolina e aveva lasciato le ante aperte. La bambina chissà come ha fatto, ha toccato le ante e se ne è dovuta l'armadio innanzi, se ne è dovuta. Per fortuna c'era il letto, se non ci fosse stato il letto avrebbe schiacciato la bambina. Questa era a casa di una mia sorella, meno male che non è successo niente, perché il letto ha salvato la bambina, perché il letto questo si ha mantenuto lo spazio necessario per non arrivare a terra, capito? Si recca giù di un tarunetto, ed era una camera da letto bellissima, stile veneziano, sai, quelle laccate, tutte quante sofisticate, è bella, eh? E oggi la crisi buia, chi su e giù il buco, la niente, ma da chi su? Sai cos'è, il problema era di questi muri, ancora oggi così, ancora oggi così, è la base è lo schienale. Tu devi fare la base, lo schienale è abbastanza pesante, in modo che quando apri gli sportelli, se no il peso degli sportelli ti si rovescia l'armadio. E invece, perché negli sportelli ci sono in tante camerette, ci sono gli specchi, ci sono, sai, lo specchio è molto pesante. E se non stai attento ti si buttare l'armadio e te ne cade addosso. Ecco qual è il discorso. Invece loro per risparmiare fanno uno schienale, una spalliera, no? leggera, e dunque non c'è peso alla parte dietro, sicché quando apri tu gli portelli fanno da contropeso davanti e ti si può rovesciare l'armadio addosso. Ripeto, la durata soprattutto di un mobile, di un armadio grande, soprattutto è la base, deve essere consistente, e soprattutto lo schienale, capito Luca? Invece c'è tutto cartone. E invece cosa succede? Io ho i bianchi su biondi perché sono col cartone dentro. Io dunque non c'è peso, non c'è niente. Sono due buchi di compensato, una mano e un'altra, e dentro c'è un bel paio di cartone. È chiaro che poi tu mi metti gli sportelli davanti, soprattutto quando ci sono gli specchi, e l'armadio non può reggere più di tanto. Se, poco a poco, se non sei attento, se li apri tutti insieme, ti si butta l'armadio addosso. Come la porta, no? Soprattutto oggi gli armadioni che ci sono a tanti sportelli, eccetera. L'armadio, se hai 12 sportelli, li devi aprire tutti i 12 e l'armadio deve rimanere bello stabile, no? Non si deve rovesciare. Ma tu vuoi troppo, ti dico, quando è piena di roba io non c'è la zebucca. Se lui ha fatto la maglia così, mi vuole mettere in acqua. Oggi come oggi, ci vogliono sapere i soldi, anche perché costa troppo materiale. Con i soldi del materiale compare di tutta la gamma da letto, non con i soldi di quanto costa, solo con i soldi che ci vogliono. Per comprare un armadio compare di tutta la gamma da letto oggi. Chiamiamo la camera da letto, dai. Pensi che un qualsiasi pinco pallino oggi apre una falegnameria artigiana solamente con i macchinari necessari, senza avere roba super sofisticata? Tu pensi che vada avanti? Quello dipende dalla testa che uno ha. Se uno lavora può anche andare avanti, la giornata gli altri la toglie. Certo, se da voi uno abituato ad andare ogni 5 minuti al bar per prendersi il caffè o prendersi il bicchierino, è chiaro che allora non può lavare, allora non puoi fare niente, non puoi avere nessuna alternativa di andare avanti, capito? Ma rubare non si docca, Giulio, non si docca a rubare. Ma buffonesi. È quello il discorso, che la maggior parte della gente è abituata ad andare sin da rubare. Per cui è logico che a quel punto il lavoro, uno che lavora in proprio, le ore le devi fare, anzi, le devi fare molte di più di quelle che solitamente si devono fare, ma molte di più, veramente. Pura di lutti della Madrenica, quando è sbucato, si è bisogna l'indomani per organizzarti tutto il procedimento del lavoro, cosa devi fare, cosa non devi fare, cosa devi comprare, il materiale, tutte queste cose. È così, uno che lavora in proprio è così, ma se poi uno è capace di villaggio, allora il discorso è tutto diverso. Circo, i bar, ui. Infatti, tu prendi, dove vado io ci sono due meccanici, il meccanico mio e il meccanico un altro a fianco, cioè no. Cioè, quello mio non lo smuove nemmeno se vai con la pistola, e via, io che andiamo al bar ti offro un caffè, non lo smuove nemmeno con la pistola puntata alla tempia. E l'altro invece non lo trovi mai in officina, per dire, perché è sempre il numero bar. E allora è chiaro che poi ti lamenti, no? Che non sei andato avanti. capito? Sono due meccanici, uno vicino all'altro. E purtroppo è così. Ah, pure Bizzini Non ci sono le regole per i meccanici, vero? Della distanza. Almeno fin quando lavoravo io no, non ce n'erano di distanze. Tanto è vero, perché da fianco a me non si sono messi due. Prima due fratelli si sono messi, dopo si sono azzoppati, si sono picchiati con il segaccio. A uno l'ha rebuto roba di 8 punti nel polso perché gli ha dato un colpo di segaccio al braccio. Hanno chiuso e se l'ha comprato un altro. Per anni a fianco a me c'era un altro falegname, proprio a fianco. Per cui, vabbè, dai, abbiamo pigli, dai. Non era bravo? Non era bravo, no, non era proprio un asino, era. Per carità, bravo di carattere, sì, brava persona, però lasciamo prendere come qualità di operaio. No, ma il discorso è questo, se ci sono già io a fianco, se c'è già lui, io non me lo posso non permettere di andare e aprire a fianco a lui. Bisogna che sia un imbecille uno che fa una cosa del genere. Sai che ci sono io già da anni qua e tu ti metti a fianco a me per fare cosa? Fai la fame, perché intanto lui ha fatto la fame tutto sommato, perché erano più i giorni che passava sulla porta aspettando che andasse qualcuno che era volando. E gli era successo così, a parte lo fatto che come qualità di operaio era proprio zero. Ma dove c'è il negozio, quello degli acquari? Lì c'era, allora. Il locale anche più grande del mio, quello era tutto quello, però non è quello che conta. Grande bisogna che sia l'operaio, non l'ambiente, il locale dove lavori. All'interno di un laboratorio si deve essere grande. L'unica cosa grande che deve essere è assolutamente quello che ci lavora dentro. Per cui lo spazio te lo crei lo stesso, non c'è problema, capito? Io ho capito, sì. Per cui non... Poi alla fine cosa ha fatto? Nulla. Ha dovuto chiudere. Io vedo che sono 50 anni, vedo che sono un figli. Dove è stato un po' un anno e poi alla fine altri due, prima uno poi l'altro, e hanno dovuto chiudere sia l'uno che l'altro. E perché non è fratelli Bova? No, anche peggio erano di quello, guarda. Intanto uno aveva lavorato in Belgio per tanti anni, aveva accumulato qualche soldo, è venuto e si è messo insieme al fratello, così convinto di essere un falegname, invece in realtà era un carpentiere edile, per cui se vuoi immaginare, però diciamo che qualche porta, qualche finestra riusciva a farla, anche se poi voleva messa al fuoco, nel modo come era stato fatto, è finita. Per dirti, no, cosa sono durati? Sono durati un annetto, un anno e mezzo massimo. Si sono bisticciati, fratello, uno era sempre in cravatta, tu lo vedevi, sembrava un impiegato, sembrava. L'altro era un randaggio, vestito da randaggio, l'altro era sempre in cravatta, perché? Perché dove lavorava lui, sai, aveva fatto qualche soldo e aveva comprato le macchine, sicché si considerava il proprietario, però che in realtà chi ne sapeva di più era l'altro fratello, almeno nel campo del legname, anche se era scarso, molto scarso, perché ripeto, era un carpentiere, non era un falegname. Che ci vuoi fare? Niente, non ci vuoi fare. Lascialo lavorare. Mentre invece per la creatività ci vuole, innanzitutto ci vogliono le mete quadre del locale e allo stesso tempo ci vuole una distanza tra un'attività e l'altra. Tipo che so io, se tu sei un parrucchiere, non puoi aprire, a fianco a te non può aprire un altro parrucchiere. In altri tempi si poteva fare, ma non certamente oggi, o perlomeno negli anni che ho lavorato io, e ci volevano non meno di 60 metri quadri, 65 metri quadri di locale ci volevano per poter aprire l'attività. E allo stesso tempo dovevi stare, non so quanta distanza dovevi stare l'uno all'altro, ma molto distante, non vicino. Mentre prima invece tu, uno di fronte all'altro, uno a fianco all'altro, miglia tu in via La Marmola, era tutto pieno di barbieri prima, ma tutti i barbieri di quelli di quando erano ragazzini, poi sono diventati grandi, tutti vecchi addirittura, e sono rimasti lo stesso, fin quando non sono spariti tutti. E come le pizzerie, i ristoranti, sono troppo attaccati, sono circoli, anche i circoli, troppo attaccati uno con l'altro. Sì, poi uno va giustamente dove si trova meglio, quello senza ombra di dubbio, ma chiedo tipo buonire la foca, magari trattarti bene per farti andare via da là, sai come te, no, le strategie che usa. Beh certo, e quella è già un'attività che dura di più del tempo, perché sai, soprattutto qua noi a Sassari ci piace mangiare, ci piace, dunque ci piace frequentare le varie pizzerie, le varie tavole calde, eccetera. Bene o male tutti lavorano, prima se magari facevano 100 pizze al giorno, oggi magari ne fanno che so io 80, perché gli altri si sono spostati e hanno aperto attività anche loro, sicché viene suddiviso il lavoro. Però non è così che deve essere. Oggi c'è più gente, cioè ci sono più pizzerie che persone che vanno a mangiare, per dire, no? C'è ben poco di pizzeria, sta qui dove sono io, ce ne sono roba di 4-5, ti puoi immaginare, eppure una piccolissima borgata e ci sono tutte queste attività. Sì, perché vedono dove vanno molto, no? Allora dicono, bene, se pizzeria cantante, noi non apriamo un altro a fianco, cioè non sono discorsi da fare. Allora, discorsi che fanno gli stupidi, perché uno non può andare ad aprire un'attività quasi a ridosso di un altro che c'è già magari anche da anni, perché intanto ti stai rovinando da solo, perché sai benissimo che è solo questo del tempo, non puoi continuare a lavorare tutta la vita lì, perché il lavoro, il numero delle persone sono sempre quelle, e il lavoro se puoi vedere diviso fra te e fra altri, che cosa hai incassato, che cosa hai guadagnato? Nulla. E allora cosa ci hanno studiato? Io a Pretaneda, che a Pretaneda ancora non opera nulla. Allora, tutti a Pretaneda. E infatti, tutti a Pretaneda, oggi tutti andano a Pretaneda, oggi per vedere l'attività è tutta a Pretaneda, sì. Infatti è vero, tutti i negozi qua sono tutti chiusi, tu non vedi altro che serrande abbassate. Prima in ogni serranda c'era un negozio, c'era un'attività di qualsiasi genere. Oggi invece cosa vai? Piazza Tola, prima c'erano una ventina di bancarelle, c'erano. Oggi tu passi Piazza Tola e ci sono due, tre, non di più, di bancarelle. E tutto questo grazie chissà magari al sistema che hanno obbligato a fare, perché mi ricordo che prima che Piazza Tola venissero fatti tutti i sottoservizi che hanno fatto, le bancarelle c'erano e c'erano tantissime, lavoravano tutti. Dopo che hanno fatto con quei sottoservizi lì, quando hanno ripreso pure l'attività della piazza, cosa sono rientrati? Due, tre. Lo stesso discorso sta diventando un mercato. Tu vai al mercato, oggi è deserto, il mercato civico. Io non so neanche come è fatto dentro, perché non mi ha mai attirato a entrarci da quando l'hanno fatto nuovo. Al vecchio c'entravo volentieri, ma veramente volentieri. In effetti è così. E oggi stanno pensando di riportarlo come era prima. Ti puoi immaginare che da alimentare dai. Io sono andato, quando è giovedì scorso, mi sembra, o venerdì, non mi ricordo bene. E così, fare una passeggiata, la trece che vado al mercato, che sono tanto tempo senza andarci. Sono andato lì, non c'era un'anima, parlo di clienti, no, non c'era un'anima. Poi c'erano tanti banchi chiusi, proprio chiusi definitivamente, non c'era attività. Per dire, no. Prima mi ricordo, aspetta, la gente dovevi chiedere permesso per passare dalla gente che c'era. Oggi non venne nessuno, ed erano appena le 11 del mattino. Sto parlando, non era che a dire è ora di chiusura, ormai la gente è già tutta a casa per il pranzo. No, era l'ora proprio di punta di fare la spesa, non c'era un'anima. Ma vedi anche i mercatini, no? Qua c'è il mercoledì il mercatino, non vedi nessuno, prima hanno iniziato con il bancarello tratta da piena, il bancarello, poi piano piano, venivano due, una, due, tutti gli altri se ne sono tutti andati. E la Mazzupini ha fatto il suo 18, l'avevamo fatto anche lì nella piazza, un mercato grandissimo, cose durato, la terza voce è già non voglio andare più nessuno. Beh, non si capisce Giulio. Appunto, e oggi anche quello è secondo me è stato un errore grande di concedere troppe licenze per tanti negozi. Non è possibile, qua nella Brogata dove sono io ci sono roba di sei supermercati, tutti i negozi grandi, ma a questo punto come fanno? Lavorano tutti quanti? Magari c'è quello che lavora molto di più perché è più organizzato, perché è più pulito, nel senso più pulito, più grande, dai, eccetera eccetera, però di solito non è così che funziona. Era bello prima quando c'era il negozietto sotto casa, anche perché era una grande comodità, la mattina uno apriva la porta, andava, si comprava il pane, il latte per dire per la prima colazione, tutto andava bene. Oggi invece deve andare, tante volte uno si trova lontano e deve usare per forza la macchina per farsi la spesa. Non è più come una volta, capito? No, è tutta morta quella cosa lì. E io penso che qua alla Budi, quando ancora c'erano le campagne, che c'erano, io andavo dal pastore a prendere il latte lì, penso a tu. A comprare il latte andavo lì dal pastore direttamente. Ma io mi ricordo addirittura il pastore lo portava a casa. Lo portava a casa addirittura, caspita. Non so se tu l'hai mai sentito, il vetraio Torre Sanna, il padre del vetraio, lui faceva il latte, faceva perché aveva gli animali, eccetera. No. E io mi ricordo quando era a casa di mamma, lui ce lo portava a casa addirittura il latte. Ma non solo a me, non solo a noi, a tutti quelli della zona portava il latte per tutti, per dire no. Oggi invece vai e lo compri il cartone e te lo devi portare tu a casa. Comunque quello non vuol dire niente, il fatto che portarlo o no. Il problema è che ce ne sono troppi di questi negozi. Tu a un certo punto un giorno vai in un negozio, un giorno vai nell'altro, però durante la giornata questi negozi devono fare un certo incasso. Se non c'è gente per comprare, questo certo incasso non lo possono fare. Fanno un incasso piccolino, che poi non può essere sufficiente per mandare avanti l'attività. Ma infatti stanno lamentando tutti che non ce la fanno più neanche a sopravvivere. Beh, per forza, perché la sopravvivenza non è facile quando si incomincia ad avere. Secondo me quello è un errore che hanno fatto a concedere tutte queste licenze così ai grandi supermercati, eccetera. Perché il grande negozio non ha fatto altro che uccidere il piccolino. Tu prendi a Sassa, ad esempio, noi abbiamo Bricome, che oggi si chiama non è più Bricome, ma un altro nome, hanno cambiato nome anche lì, vabbè. Tu vai e cercami un negozio di ferramenta a Sassa, dica, vabbè, c'è Carboni e Palmieri, boh, basta. Prima veniva nel sesto orto di questi negozi, c'erano di ferramenta, andavi dove ti piaceva, in ogni angolo della città ce n'era uno. Invece oggi tutti da Bricome, tutti i soldi, tutti da Bricome, e poi i soldi di Bricome dove finiscono? Finiscono tutti quanti all'estero, perché sono tutti multinazionali stranieri. È vero, ferramenta a Ponte Rosello, a te la mente. Ferramenta a Ponte Rosello, vabbè, quello c'è sempre, a Presanieda c'è sempre l'unico, il più forte che c'è a Sassari come negozio di ferramenta, è Carboni, boh, basta, tutti gli altri. Prima c'era Carboni, adesso non mi ricordo, ce n'era un altro in via all'angolo delle quattro cantonate, lì in via Toletana, c'era, e tanti altri, insomma ce n'erano 7-8, c'era Losa, vabbè Losa c'è sempre, però a livello di operai Losa non vende più niente, qualcosina così, perché se no di solito vende i graffitini, vende i gravilli, queste cose qua. Vai da Losa, te li trovi, vuoi comprarti un coltello che ti piace, vai te lo compri da Losa. Ma se vai a chiedere dammi una serratura di sicurezza come una volta, eccetera, non ne hanno più di queste cose. Brecchi, buonasera. Avanti Brecchi. Buonasera a tutti, doppio Luca. Ciao Gianni, buonasera. Avanti Luca. Luca. Ciao Gianni, buonasera, avanti, avanti. Dai, che così finisco questo cavolo di ricoso. Avanti Gianni, buonasera di nuovo. Ciao Luca, ciao Giulio, non so se ci sia altra gente, saluto tutti cordialmente, acceso in questo momento. Aspetta, speriamo che ci sia qualcuno, perché ho mollato intanto per venire qua, là. Ma è per colpa tua che è Gianni, è per colpa tua. Allora, sempre colpa mia, povero me. Tu molli per il canto, l'altro molla per quello, l'altro molla per l'altro, è normale che la frequenza poi muore. No, io faccio un po' e un po'. Io canto se non accetta ora, poi prendo, quando non c'è nessuno qua accanto, poi vengo e accendo, non è, se poi non c'è nessuno spengo e continuo a cantare, non è che sto senza far nulla. E fai bene, beh, un'alternativa certo al lume ci deve essere, no? Allora o il malattino oppure cantare, come dici tu, va bene, è normalissimo. Questo è normale, in effetti è così, là. Non c'è più nessuna frequenza, allora sembra è più facile vincere tutto canto oggi che trovare un corseo come si faceva una volta, o Gianni. Sta entrando un po' gente, ma diciamo che adesso qualcuno sta entrando, Natalino per dire, non c'è stasera, non lo so, Natalino, entra anche Emanuele, qualche volta Luca Manicomio. Ma li sento una volta al mese certe persone che hai nominato, ad esempio Emanuele io purtroppo non lo sento, perché a lui è un antennino e difficilmente riesco a sentire alle volte. Secondo come piazza con l'antennino magari posso anche sentire qualcosina, ma solitamente non lo sento. Sento che magari sta parlando con voi, con altri, ma io a lui non lo sento. Purtroppo così, Luca si sa, Luca ormai si è quasi allontanato dalla frequenza, entra una volta ogni tanto, Luca Manicomio. Perciò non è che possiamo chiaramente avere molto da fare con le persone che si allontanano. Tu prendi ad esempio Gianni Lombrofetta, l'hai più sentito, sono mesi e mesi che non lo senti, non l'ho sentito io. Con l'altro che lavorava da vetraio, come si chiama, non mi ricordo più nemmeno come si chiama, sono un anno o due anni senza sentirlo, e tanti altri, non c'è più nessuno già, siamo rimasti solamente io, Luca, Natalino, tu qualche volta Tonino, raramente Franco California, poi dall'altro canale lo sappiamo, Tone e Gio Maria, basta, gli altri che dove sono? Non ci sono. Io entrerei anche ogni giorno, Giulio, ma se non ci sono persone cosa si a fare? Io la mattina noi facciamo chiamata, sia io sia Luca, e anche Natalino, però siamo noi e basta. Cosa ci diciamo? Sì, diciamo quando è 4-5 giorni fa si è sentito per un po' Carlo, si è sentito, ma ormai la gente si è allontanata, no? Anche perché sa che non c'è nessuno, allora uno accende, se non c'è nessuno e chiude, è normale, no? È normalissimo quello che succeda così. Purtroppo è andata di pazienza, allora ci vuole fare. Dopotutto ci siamo una vita in frequenza, ci siamo, e allora un po' perché ci siamo staccati, un po' perché siamo invecchiati e non abbiamo magari più la pazienza e la passione di una volta per poter stare in frequenza, tutto lì già. Sì, ma il fatto che siamo qua vuol dire che la passione ci è sempre rimasta, il fatto che siamo qua e continuiamo anche se c'è poca gente fino all'ultimo vuol dire che la passione c'è. E certo che sì che c'è, però è inutile che ce l'hai, ma se non hai l'interlocutore la passione che ti dura magari due ore al giorno ti dura 10 minuti e basta, e questo è il problema. Quello sì. Vabbè, sì, quando c'è gente si parla poi. Io in macchina non ne ho più acceso perché sapevo che la mattina non entrava nessuno, quindi non ne ho più acceso. Tante volte io esco con la macchina, vado fuori, eccetera, ma non ne attacco perché è inutile, se non c'è gente cosa lo attacchi a fare? Stai 3 ore per mettere l'antenna, tutto. tanto piantare tutto e poi non ce ne c'è. E infatti non ne vale la pena fare tutto quel lavoro proprio per poi non sentire nessuno, è ovvio, ma ti capisco, è una cosa normalissima quella, che uno si scuccia e non è più propenso a fare il montaggio tutti i giorni della radio macchina, assolutamente no, è normale, ma prima invece non era così, prima dalla mattina alla sera, 24 ore quasi su 24 c'era sempre tantissima gente, c'erano anche tantissime donne, invece col tempo sono andate sempre diminuendo, adesso siamo arrivati proprio veramente alla frutta, non c'è più nessuno, siamo io rimasti, diciamo, io e Luca e Tirasino, io, Luca e Natalino, tutti gli altri, tu ogni tanto che entri, tutti gli altri non ci sono più, non li ho più sentiti. Ma io adesso un periodo, prima entravo tutti i giorni, molte volte stavo 3 ore chiamando, a volte mettono la porta e non ti rispondono, la gente già c'è la scuola, però non vuole rispondere. Buon Natale, buon provecchio, ci sentiamo. Anche quella poi è un altro modo di fare, lo so, tante volte anch'io vedo la porta, però non parlo, evidentemente si ritengono soddisfatti sentire solo un rumore di fondo e basta. Pazienza, vuol dire, vedranno loro cosa fare, cosa mi avete detto. Come si chiama quello che lavorava? Giuseppe Tornato, dopo sono 2 anni senza sentirlo, prima sentivo anche quello di Usilo ogni tanto, Francesco Uranio, è che l'ha mai più sentito, Claudio di Umulo, è che l'ha più sentito, non ho più sentito nessuno, quello di Porto Torres, non di Porto Torres, e anche di Porto Torres, quello di Alghero, quel falegname di Alghero, è che l'ha più sentito, non c'è più nessuno già, è chiaro, se non c'è nessuno la gente si stanca, non l'accende nemmeno. È un peccato. Un peccato non accendere gli apparecchi, perché poi ci rovinano anche oltretutto. E anche quello è vero, dunque figurati, c'è da dire anche questo, ma io già da un bel po' di tempo sto dicendo, se dovesse servirmi una qualsiasi cosa per la frequenza non spenderò più nemmeno un centesimo, perché non ne vale la pena, per cui vado avanti con quello che mi è rimasto e finché funziona va bene. Per cui non posso spendere soldi per cosa poi, per non utilizzare l'apparecchiatura, non serve a niente, vado avanti con quello che ho e basta, tutto lì, anzi avevo il K e me ne sono disfatto, figurati un po', anche vabbè era guasto, tu mi dai la cosa, ma si poteva anche riparare volendo, no? L'avrei potuto riparare per l'ennesima volta, invece ho preferito disfarmene, intanto sono 21 e allora sono una persona che se poi se l'ha riparata lui e so che lo sto usando, tutto lì. Vabbè, sì, è così. Io adesso cambio, lo faccio giro un attimino sul Galaxy, dai, che è un po' di tempo che non l'accendo, se no mi parte qualche componente qui, un casino aggiustato. Cambia, già sono qua io. Luca, e beh, attaccata lei questa batteria, come si chiama? Cancellatore. Sì, sempre facendo Giulio, infatti ne ho approfittato proprio perché diciamo è entrato Gianni, così almeno si prosegue il questo. Sto continuando. Adesso niente, devo fare dei buchi per fissare l'adattatore al manico, appunto. E giù, così è. Vedi Gianni, per esempio, dice appena acceso, ma scusa un attimino, io per esempio accendo la radio, metto lo squelch e mi metto a fare altre cose, no? Oppure ascolto nelle altre bande con l'altra radio, sul ricevitore. però qua è sempre in cosa, in monitor, diciamo così. Ma se uno tiene spento, come fa a sapere che adesso non so che ore sono? Gianni è entrato adesso, ma scusa, la gente ci può essere anche alle 5 di sera, ma se tu la radio la accendi alle 8, quando la gente già si arrende, la radio la devi accendere prima, poi ti metti lo specchio, cosa te ne affutti? Se senti qualcuno e ti fa piacere andare a entrare nel questione, entri, no? Cioè non è che la radio la devi tenere spenta, è normale, se la tieni spenta fino alle 7, come ti vai? Io ragiono così, qui acceso, metto lo squelcio, boh, basta. Ma la gente è entrata dopo le 6:30, non venne mai prima. Ma cosa, ci siamo la sera quando ci siamo con Giulio, la mattina nel senso ci siamo sempre, io, Natalino, Giulio, ci siamo sempre, anche il discorso che stavi facendo prima, non è vero che non c'è nessuno, la mattina ci siamo sempre, certo se tu mi dirai, ma io devo buone antenne, il baracchino, passare il cavo, non c'è una cosa fissa, certo, hai perfettamente ragione, per quell'oretta che ci siamo comunque, io dico ne vale la pena, poi dipende uno dove deve andare, se devi girare all'angolo con la macchina, mica si muove un baracchino. Io ho provato due volte, non c'era mai nessuno, sono andato a Danieda a fare la spesa e cose, l'ho attaccata, non c'era mai nessuno, sempre con l'antenna attaccata, l'apparato acceso e non è entrato nessuno, ho fatto chiamata, niente da fare, e c'è qualcuno che mette la portata ma non entra. Io lo stesso, tante volte lascio acceso così, lascio, me ne scendo giù, me ne scendo, però ormai tutta la macchina acceso anche, a volte anche dalle 3 è acceso, magari sono mi sto riposando un attimino, però sono acceso per dire dalle 3 e metto l'RPG, metto e dunque non sento il rumore, niente, però basta che uno metta la portante che sento subito l'aggancio della portante per dire no, ma non entra nessuno, io adesso, che era Luca quando abbiamo iniziato noi, mi pare che quasi 2 ore fa, mi sembra che erano le 5, una cosa del genere, quando abbiamo iniziato, e in tutto questo periodo dove sei entrato solo tu Gianni, e io sto parlando già di oltre un'ora e mezza di trasmissione che stiamo facendo io e Luca, non è entrato nessuno, solo tu adesso. E tanti vanno a fare così, il bombo ha trovato il lavoro di sera, quindi la sera sta lavorando, capito? Prima entrava anche il bombo e niente, non sta più entrando perché sta lavorando. E meglio così, sono contento per lui, che ci mancherebbe altro, non è che uno può abbandonare il lavoro per il baracchino, questo no, ci mancherebbe, però pensando al fatto che prima si lavorava lo stesso, eppure c'era gente 24 ore su 24, c'erano le donne, se non c'erano gli uomini a parlare c'erano le donne, per dire no, c'era l'attività sino alle 3 alle 4 del mattino e qualcuno anche saltava tutta la notte anche. Dire, oggi invece tu lo lasci acceso, lo puoi anche silenziare, metti un po' lo squelch, metti le RPG, come faccio io squelch non le metto perché metto le RPG e basta, perché anche se non c'è segnale, io con le RPG chiuso non sento il rumore e allo stesso tempo però sento la modulazione se qualcuno, anche se è basso, anche di propagazione sento con le RPG, mentre invece se metto lo squelch magari arriva qualcuno che è più basso e non me lo apre lo squelch, mette con le RPG e si è aperto lo squelch, però allo stesso tempo non sento il rumore di fondo, perlomeno in questo baracchino che ho io posso fare questo lavoro qua. Sì, vabbè, ma basta passare per fare il volume e quello di vabbè. Ma io lo lascio spento, allora che so che c'è gente lo accendo, non è che lo lascio acceso lui, ma che cosa lo lascio acceso? Per sprecare il corrente. Vabbè, quello sì, hai ragione, lo spreco di corrente, però non è poi questo grande consumo che fa, già lo sappiamo, soprattutto in ascolto, no, non è che abbia, basta pensare che puoi ascoltare anche con un consumo di un ampere appena lo avevo un baracchino in ascolto, poi in trasmissione possono essere anche 3 ampere ed è sufficiente per poter utilizzare i 5 watt, no? Per cui non è questo grande consumo, assolutamente no. Il discorso è questo, che manca ormai la volontà e la voglia di modulare, e tu solo fatto che prima ti ricordi, prima ogni pochi giorni c'era uno nuovo, oggi sono anni che io non sento che uno entra da nuovo, non sono anni. Tu ti ricordi qualcuno che è entrato da poco, nuovo? No, io non me lo ricordo, ma da almeno un paio d'anni, forse anche di più. Che non avanti da più a nessuno il baracchino, ormai sono tutti al telefono, ci sono le app per girare, per fare, per conoscere, per cantare, per giocare, per parlare con la gente, cioè il telefonino ha sostituito tutto. Appunto, e quando non c'è la gente di noi che rimanevamo a casa, durante il giorno c'erano i camionisti che parlavano, li sentivi sempre, tu a qualsiasi ora che accendevi c'era sempre qualche camionista che lo sentivi parlare e parlava con noi, c'erano i pescatori che parlavano con noi. Oggi li senti più, io sono anni che non sento più un camionista o che non sento più un pescatore e non li sentirò mai più, so benissimo che non li sentirò mai più perché tutti si sono attrezzati in altra maniera, o col telefonino o con il VHF marino eccetera, e qui non li sentiremo mai più. E il discorso è questo, ti ricordi che prima era un affollamento addirittura viscerale? Come non lo ricordo? Io parlavo con un mio collega che aveva il peschereccio, il padre, mi faceva portare i granchi per andare a pescare. La mattina mi diceva: passa domani mattina sotto casa che ti lascio la macchina con la cassetta ai granchi, ti lascio il cofano aperto dietro. Apri il cofano, poi lo chiudi. Andavo, me li prendevo, poi dicevo: quante, vai tranquillo, non volevo mai sciogliere. È certo che è così, e non solamente da Sassari, diciamo che in tutti i paesi limitrofi a Sassari c'era gente, perché li sentivamo, è da Proaghe, è da Usini, è da Ossi, è da Tissi, è dappertutto, da Porto Torres, da Alghero, e tutti questi a Itili. Ti ricordi, tu quanti anni sei senza sentire Gianni nel radio tecnico da Itili? Io sarò, senza esagerare, ma sarò 10 anni come minimo, senza sentirlo più. E Gianni era una persona abbastanza in gamba, anche perché era radiotecnico e tante volte spiegava tantissime cose inerenti alla radiotecnica e all'elettronica, eccetera. Tu l'hai mai più sentito? Assolutamente no. No, assolutamente. E vabbè, c'erano tanti, c'era Usili che parlava. Come si chiama quello di Usili che non mi ricordo più? Ormai ho perso anche i nomi, non me ne ricordo più nemmeno anch'io, figurati. Proprio stamattina mi stava dicendo Natalino, dice oggi ho fatto un'uscita e sai che ho incontrato Pinguino, ti ricordi Antonio Pinguino? Sì, lo ricordo. E adesso faceva l'autista, portava la roba a noi. E appunto sta facendo ancora l'autista, credo che sia così. Ma per dirti, no, invece adesso è un nome così a caso che mi è venuto in mente, perché proprio stamattina me l'ha detto un natalino. Dice, ho fatto una passeggiata e l'ho incontrato lì. Dice, vabbè, oggi come oggi, dice, non ne ha più nessuno. Io un tempo fa sono capitato di dalle parti di Via Brigata Sassari in quella zona e ho trovato Antonio Venerdini, tanto, ma non è più baracchino. Sì, ce l'ho tutto, e allora perché non accendi, perché non entri? No, assolutamente, ma non ci penso proprio, ma per me è finito ormai, no, però ho tutto, dice, no, non c'è problema. E lo stesso discorso l'ho potuto fare con Costanza Ora Zero, ha tutto anche lui, ha microfono, ha il microfono anche del suocero, del TNT3, e anche la radio del suocero, te ricordi? E dunque anche lui, ha detto, perché non ha piazzato un antennino così a casa? No, ma non ci penso proprio. E allora vendimi il microfono. No, non te lo vendo perché è un ricordo di mio suocero, dice. Eppure ce l'ha, Gianni. E tante persone ce l'hanno, ma non lo usano. Infatti, Luca. Ma giù non lo usano perché prima lo usavano solo, diciamo, a comodità della tecnologia dell'epoca, ecco Barroso. Poi sono usciti i cellulari e così, che non avevano la passione per dire che abbiamo noi, e hanno mulla tutto, ecco perché non ne hanno neanche intenzione di accenderne, capito, solo Baghisso, perché non avevano la passione che abbiamo noi. Sì, ma in effetti è così, in effetti è così. Lo so, purtroppo poi c'è qualcun altro che oggi è anche impossibilitato, per ragioni molto, molto serie, che non ha la radio perché non te l'ha potuto comprare, magari te l'ha potuto essere disfatto perché non ho, perché avevo necessità di fare cassa, però io attualmente lo so perché me l'hanno raccontato, ma io non faccio nomi, ci mancherebbe altro che vado a mettere in piazza certe notizie, no, nella maniera più assoluta per dire no. Eppure dice io sono sempre appassionato, ma no, non posso purtroppo per problemi molto seri che ho in famiglia, ecco qual è il discorso già. È tutta una serie di circostanze, di motivi che fanno sì che non ti consentono appunto di poter continuare a stare in frequenza. Ormai Gianni c'ha il canto, capito? Gianni c'ha il canto, non lo ammette, ma c'ha il canto e anche lui ha preso una passione diversa, capito? Ed è così che ci vogliamo fare, non è che non c'è nessuno, è che ha scelto un'altra strada, perché Gianni era assiduo di radio, non può dire non c'è nessuno, la mattina c'è qualcuno, pomeriggio c'è qualcuno, ma la radio bisogna accenderla, non bisogna tenerla spenta e dire accendi intanto alle 8, intanto non c'è nessuno prima di quell'ora, ma chi l'ha detto? Se tu non accendi la radio, come io ripeto tengo lo squelce inserito, e se sento Giulio, magari non sto facendo niente, però non entro, oppure dico Giulio scusa sto facendo la roba, ma entro. Certo, se la radio la tengo spenta, come ti posso a Sabesi per Giulio, cioè. Purtroppo è così, cosa ci vuoi fare? Perché pensi che adesso non ci sia qualcuno in ascolto? Io sono convinto che qualcuno in ascolto c'è, però non ha voglia di entrare o non gli interessano gli argomenti che stiamo trattando. E anche quello bisogna considerare. Alle volte si fanno dei discorsi che a uno non interessano e dunque non vuole essere partecipe al di là della discussione, e il discorso è anche quello, perciò ci sono tanti i motivi, però poi tornando al discorso, oggi c'è il computer, uno preferisce il computer, preferisce il telefonino, o preferisce la musica, o preferisce addirittura farsi quattro passi all'aria aperta anziché stare lì davanti alla radio a chiacchierare davanti a un microfono, e questo è il discorso. Gianni, sei rientrato? Sì, sono qua. Il discorso è quello già, per cui no, ci sono mille motivi, ci sono, però ovviamente ognuno è padronissimo di fare quello che vuole, ci mancherebbe altro, non è che noi possiamo diciamo obbligare nessuno a chiacchierare per forza con noi. Se non hai voglia, pazienza, amici come prima, anche più di prima, però se hai passione per la radio entra qualche volta, almeno per salutarti, dieci minuti, ma entra, invece no, non entrano, mettono la portante, fanno sapere che sono all'ascolto. Che cosa mi interessa a me se tu sei all'ascolto? Io sono contento che tu sia all'ascolto, ma mi farebbe più piacere se tu entrassi a parlare. Lì, avanti Luca. E poi non è che facciamo discorsi un giorno di politica, le cose che uno parla di persona quando si trova con un'altra persona, di politica, di noi qua vediamo di radiotecnica, cioè boh, non credo che ci siano discorsi particolari per non dover entrare. Boh. No, infatti è così, invece tanta gente che ha avuto modo di parlare incontrando le verticali, la prima cosa che mi hanno detto è cosa entra fa? Ma intendiamo che mi domandano controllo, ma cosa mi interessa a me di accostare voce oppure la fetta che c'è a burlare, ma cosa mi interessa a me se tu c'è, cosa mi interessa a validare con te, anche quello c'è da dire, insomma diciamo che in un certo senso non ce l'abbiamo saputa coltivare bene noi la frequenza e l'abbiamo diciamo in un certo senso anche sporcata con certi argomenti che abbiamo trattato, anche se gli argomenti di controllo eccetera si dovevano fare ugualmente, perché si devono fare di tanto in tanto, fanno parte anche quello del discorso, o perlomeno fanno da apri guida per poter fare aprire un discorso, ma se non lo accende, non sarà mai così. Allora, infatti il discorso deve essere quello, cioè noi, a mia rita, ma questa è da molto senza accenderlo, cioè, sì, ma è da voi magari pari di burro, cioè, o vogliono parlare solo di quello, o devono mettere il microfono nuovo, o Guido, o l'altro, e non lo so. Diciamo che l'abbiamo, tutto sommato, l'abbiamo